America 24 di Mario Platero. Benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Il Dow Jones, uno scampanellio di chiusura, quello di ieri non positivo. Anche Wall Street comincia a soffrire in modo diretto della crisi europea, in modo indiretto della lentezza con cui le parti politiche a Washington stanno raggiungendo un accordo per ridurre il disavanzo pubblico. Vorrei soffermarmi un momento su questo andamento di Wall Street. È vero che l'indice Dow Jones è andato relativamente meglio di quello delle borse europee negli ultimi giorni, ma non ci si può dimenticare che nel momento in cui c'è una crisi di tipo internazionale come quella che si sta verificando in Europa, a soffrirne sono un po' tutti. Perché vi dico questo? Perché per troppo tempo si è parlato di complotto, per troppo tempo si è detto che le banche americane, gli speculatori americani in modo coordinato volevano affossare l'euro e il progetto europeo. Bene, vorrei smentire questa ipotesi in tutta tranquillità. È vero che ci sono degli speculatori, è vero che agiscono sul mercato, ma quelle sono le regole di questo mercato. Nel momento in cui ci sono delle percezioni di debolezza generalizzata, nel momento in cui non si va avanti lungo gli obiettivi enunciati, i mercati reagiscono. E vi dico questo perché ho avuto occasione di parlare con un paio di banchieri molto importanti, anzi finanzieri, non posso dire il nome perché mi hanno chiesto di non menzionarlo, ho parlato con loro durante il fine settimana. Ebbene, loro erano preoccupati da quel che stava succedendo in Europa, speravano che potesse intervenire la Banca Centrale Europea magari per creare un pochino più di liquidità, si auguravano che in particolare l'Italia, il nostro paese, potesse procedere rapidamente con il varo della manovra e magari aggiungere qualche altra misura per attaccare le rigidità strutturali e dunque aprire un pochettino il sentiero di crescita. As all of you know, I met with congressional leaders yesterday. We're going to be meeting again today and we're going to meet every single day until we get this thing resolved. E questo è il presidente Barack Obama. Anche l'America ovviamente si trova in difficoltà. Sulla carta potrebbe rischiare il default se non si trova un accordo sul bilancio, potrebbe non essere in grado di pagare i suoi debiti già a partire dal 2 di agosto prossimo. Però devo dire, da questa parte dell'Atlantico la situazione è più tranquilla. Dopo gli incontri della settimana scorsa promettenti, quelli di domenica che sono stati invece scoraggianti, le parti politiche sono tornate ieri al tavolo negoziale e ci resteranno per tutto il tempo necessario, anche fino al prossimo fine settimana, come ha detto ieri Barack Obama nella conferenza stampa che vi ho appena fatto sentire. Il problema è che le basi politiche, soprattutto la base dei repubblicani, coloro che fanno capo al movimento dei Tea Parties, resistono qualunque concessione e dunque hanno messo in difficoltà il loro leader, il presidente della Camera, John Boehner, che ha lavorato per stessa ammissione del presidente Barack Obama in grande trasparenza, con grande lealtà, con grande determinazione per fare la cosa giusta per il paese America. I'm happy to consider all alternatives that they're looking at. The things that I will not consider are a 30-day or a 60-day or a 90-day or 180-day temporary stopgap resolution to this problem. Now is the time to deal with these issues. If not now, when? Barack Obama ha chiarito con questa dichiarazione che entro il 2 agosto l'accordo si troverà, che l'ipotesi di un default americano non è neanche da prendere in considerazione. Ha anche detto che non firmerà alcuna ipotesi di proroga. Se i repubblicani dovessero dire, insomma, aspettiamo un altro 30 giorni, altri 60 giorni, altri 90 giorni, posticipiamo il problema. Non si tratta di posticipare il problema, ha detto Barack Obama. Semmai fra 3 mesi sarà ancora più difficile. Il momento è ora. Se non ora, quando? Ha detto testualmente il presidente. Ecco, Barack Obama esce da questa situazione, almeno per ora, con un guadagno di immagine. Perché? Perché è riuscito in qualche modo a mettersi in una posizione supra partes, ha relegato le basi politiche, le rispettive basi politiche del partito in una posizione secondaria rispetto al suo ruolo di presidente, e devo dire che lo stesso Boehner ne esce in qualche modo un po' sminuito nel suo ruolo di leadership, perché prima lui stesso aveva considerato l'idea, per esempio, di fare una grande riforma fiscale e di eliminare alcune disfunzioni implicite nel sistema fiscale che creano delle sperequazioni, e quindi di risparmiare fino a 1.000 miliardi di dollari con una riforma fiscale. Aveva persino chiesto e ottenuto dal presidente Obama di poter discutere anche della questione delle pensioni. Poi però la sua base politica gli ha imposto di fare un passo indietro, e dunque Boehner è stato chiarissimo: di tasse non possiamo parlarne. Perché? Beh, perché si è sentito isolato nel caucus repubblicano. Il caucus, ricordiamolo, è un gruppo politico che analizza certe questioni centrali per poi esprimere una direzione di voto alla base dei deputati. Ecco, in questo caucus Boehner è rimasto in minoranza. Il New York Times ci ha dato addirittura una dichiarazione che ha fatto Boehner, il virgolettato è questo: non ho fatto 20 anni di carriera politica per arrivare alla guida del Congresso e non realizzare qualche cosa di grosso, qualche cosa di storico. Ecco, voleva farlo, non c'è riuscito, i Tea Parties si sono messi in mezzo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo 20 anni dal loro ultimo disco, i Pixies hanno cominciato a parlare di un nuovo album. La rock band di Boston si era prima smembrata, poi si era riunita nel 2004, e a questo punto potrebbe tornare sulla cresta dell'onda. Ce lo auguriamo per loro, dei Pixies, Where Is My Mind, uno dei loro più grandi successi. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!